l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. In attesa di un ritorno progressivo alla normalità in tutto il paese, il mondo dell'autotrasporto merci è alle prese con problematiche vecchie e nuove, alcune delle quali rese più gravi dall'emergenza sanitaria che ha costretto a interrompere buona parte delle attività produttive. Il governo ha messo in campo una serie di provvedimenti per sostenere le imprese, fra i quali una maggiore facilità di accesso al credito per provare a tamponare la crisi di liquidità. Restano comunque molte le criticità, a partire dai ritardi nei pagamenti, a cui si aggiungono il rialzo dei costi, le commesse diminuite e i viaggi a vuoto aumentati. Difficoltà che gravano soprattutto sulle piccole aziende, che rappresentano gran parte del settore. La pandemia in atto, inoltre, ha reso più complicati i viaggi oltre confine, con conseguenze anche per il nostro export. Da dove ripartire? Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, cerchiamo un po' di fare il punto della situazione di questo settore, quello dei trasporti, in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, fortemente impegnato sul fronte dell'emergenza. Un punto che facciamo in compagnia del nostro ospite, che è Amedeo Genedani, presidente di Unatras. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, proprio qualche giorno fa, giovedì, c'è stato un incontro di Unatras, che lo ricordiamo è la confederazione che raggruppa alcune delle principali associazioni di categoria del settore. Si è fatto un po' il punto della situazione, anche alla luce delle richieste da fare al governo in questa fase così delicata. C'è una sorta di tavolo aperto con il governo su alcuni punti, ne cito solo alcuni: la liquidità delle imprese, i tempi di pagamento, ne abbiamo parlato a lungo anche nel corso di altre nostre precedenti trasmissioni. Insomma, si cerca di fare un po' il punto della situazione con delle richieste che puntano in qualche modo ad una risposta concreta. Sicuramente si è trattato questi argomenti anche facendo un'analisi approfondita di tutto quello che è stato chiesto al governo e di quello che è stato recepito a oggi. Purtroppo non abbiamo contezza se nel prossimo provvedimento, nel decreto legge, quello che viene definito qua dovrebbe uscire la prossima settimana, non abbiamo contezza se ci sono alcune cose che stiamo chiedendo con forza e che abbiamo chiesto più di una volta. Ad oggi purtroppo non ci possiamo ritenere soddisfatti di come stanno andando le cose. Abbiamo ottenuto quelle deroghe operative, faccio un esempio: validità delle patenti, delle CQC, revisioni per poter operare. In pratica ci hanno consentito, con spirito di sacrificio, perché i nostri hanno lavorato in mezzo, diciamo, col rischio del Covid e con mascherine per servire il popolo, ma ci saremmo aspettati la stessa velocità relativamente alle altre richieste che avevamo avanzato già alla ministra De Micheli. In particolar modo la liquidità, come diceva lei prima, la nostra categoria ha continuato a operare, a lavorare, quindi ha continuato a spendere soldi su carburante, a pagare carburante che si paga cash e i pedaggi autostradali. Quindi avevamo chiesto un canale privilegiato affinché si potesse avere liquidità in tempi stretti per poter, diciamo, continuare a pagare anche i fornitori e quindi non strappare la catena dei fornitori, perché se si strappa la catena dei fornitori è un problema anche per le aziende di trasporto, non solo, anche per tutte le aziende. Anche perché il tema della liquidità, che è un tema che ovviamente in questo momento tocca tutte le imprese operative in Italia, per il settore dell'autotrasporto diventa assolutamente più urgente, perché è quello che è rimasto pienamente operativo in queste settimane e quindi ha dei costi in qualche modo da sostenere, da supportare. C'è poi un tema molto importante che voi avete lanciato, sottolineato anche nelle scorse settimane, che è quello dei tempi di pagamento, in qualche modo legato anche al tema della liquidità, e anche qui voi chiedete un intervento del governo. Sì, beh, senza ombra di dubbio si era già parlato con la ministra già in precedenza di adeguare la normativa dell'agroalimentare anche all'autotrasporto, speriamo che questa norma vada avanti e sia dentro il decreto, però abbiamo chiesto più di una volta di poterla vedere prima che venga, diciamo, diventi norma, e purtroppo non abbiamo avuto risposte nel merito, quindi questa qua è una cosa importantissima. Un'altra norma che a noi interessava molto, anche qui è stato chiesto più di una volta al ministro di porre rimedio, era la questione delle cisterne, che vorrei dire, perché anche su questo avevamo chiesto la scadenza della normativa delle cisternette al 31-12 del 2020, ma non ci hanno accontentato a metà mettendo il 30 giugno. Il 30 giugno è domani, io non so, dal 1 di luglio chi potrà mettere in regola le cisterne e fare quello che dice la normativa. Quindi il governo deve vedere con un'ottica un po' maggiore in quello che fa, in quello che sono gli spostamenti, come i divieti, e per essere chiari, chi divieti ti rispostano da una settimana all'altra, non si riesce a programmare quei 3-4 mesi o 6 mesi di programmazione. Avevamo chiesto anche la ripubblicazione dei costi di riferimento, no? Negli ultimi settimane abbiamo sentito che l'authority ha dato parere favorevole, quindi stiamo aspettando anche la ripubblicazione di questi costi di riferimento. È una cosa importantissima, è il perfezionamento della norma sulle revisioni per l'affidamento ai privati, perché oggi, per tutto il periodo del Covid, fino ad oggi le officine meccaniche private sono sempre rimaste aperte. Se ci fosse stata questa possibilità di avere perfezionato la norma e quindi aver affidato le revisioni anche ai privati, sicuramente avremmo risolto un grande problema di fare trasporti internazionali, che alcuni sono costretti a tenere il veicolo fermo perché in pratica è scaduta la revisione e non possono fare i viaggi. Quindi alcune cose importantissime. Un'altra cosa che era stata chiesta al ministro, che ha detto che si sarebbe impegnato in modo importante, è dare le mascherine alle aziende di trasporti. Avevamo detto, dopo la sanità ci deve essere l'autotrasporto, che alla stregua della sanità rischia tutti i giorni e facciamo fatica a recepirli sul mercato. Sì, in questo contesto c'è da segnalare anche l'iniziativa della cabina di regia Benessere Italia presso la presidenza del Consiglio, che proprio la settimana scorsa, qualche giorno fa, ha distribuito circa 10.000 flaconi di disinfettanti alle imprese di autotrasporto. Ovviamente un piccolo segnale però di questo interesse che, come sottolineava Genedani, è necessario in qualche modo sostenere. Genedani, ritorniamo un attimo al tema della liquidità. Vogliamo ricordare quali sono i costi delle imprese di autotrasporto, quelli che ovviamente impegnano in prima persona le imprese e sono alla base del loro sostentamento? Sicuramente l'autotrasporto ha un costo, diciamo, cash contante, che è quello del carburante, quello dei pedaggi autostradali, che si raggira circa sui 36-37% dei costi dell'azienda. Poi mettiamo dentro tutti i costi collaterali che hanno qualsiasi imprenditore, qualsiasi azienda, però noi abbiamo un esborso di questi del 36-37% tra pedaggi autostradali e gasolio. Il gasolio si paga in contante, qualsiasi cittadino che fa rifornimento lo fa. Certo. Su questo vorrei aggiungere una richiesta che avevamo già avanzato alla ministra, la questione dei pedaggi autostradali. Noi chiedevamo che ci fosse la possibilità di avere una moratoria sul pagamento dei pedaggi, visto che i nostri trasportatori sono tutti associati in grandi consorsi che hanno dato delle fiduzioni alle società autostradali, quindi chiedevamo una moratoria, perché c'è qualcuno che fa già fatica, anzi è da qualche mese che non paga i pedaggi, purtroppo con un semplice bip si paga alle società autostradali che sono stracoperte con queste fiduzioni importantissime. Da lunedì prossimo, 4 maggio, c'è la riapertura di molti siti produttivi, quindi in quest'ottica anche un ritorno alla normalità, tra virgolette, anche per l'autotrasporto, con la possibilità di aumentare i ritorni e quindi generare maggiori economie sui carichi. Sicuramente questo sarà un valore aggiunto che speriamo che ci sia, speriamo che le aziende riprendano, ma purtroppo i consumi sono quelli che sono, la gente penso che oggi se doveva rifare o comprare qualcosa non lo comprerà, visto quello che è successo e quello che sta succedendo, visto gli esborsi familiari sostenuti, automaticamente speriamo che ci sia un minimo di ripresa, ma non sarà una grande ripresa, sarà sicuramente un proseguire, andare avanti, bisognerà vedere nel proseguo di alcuni mesi quello che potrà succedere. Certo. E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione attenzione l'evoluzione di questo dibattito e quindi la risposta a queste richieste da parte del mondo dell'autotrasporto. Termina qui questo spazio di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Amedeo Genedani, presidente di Unatras. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.